Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. This is considered the best elementary school in the state, and we maintain that reputation by adhering to a strict code of conduct, faculty included. You know what? You don't have to worry about me because I'm a hard ass, and if a kid gets out of line, I got no problem smacking him in the head. No, we don't use corporal punishment here. Okay, so just verbal abuse? Mr. Schneebly, if you have any problems with any of your students, you just send them to me. I will do the disciplining. Check. Seconda parte del volume di quest'oggi di Eclettica su Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni, tutti i giorni fra le 19 e le 20. Prima di passare a questa seconda parte abbiamo ancora qualcosa da dire in relazione alla prima, in quanto non ho annunciato né A Swim to Birds, ascoltati con In Bed with Your Best Friend, e poi The Forms, che quella prima parte hanno chiuso con Sunday. Bene, a questo punto mi posso occupare della seconda parte del volume numero 3 di Eclettica e parlare di Simple Kid che vi siete appena ascoltati. Se avete avuto una vaga sensazione di Beck, sono d'accordo con voi, è così. Però il brano Lil King Kong da parte dell'artista irlandese, però che fa di base a Londra, è un brano che ha sicuramente il suo valore, al di là dei richiami evidentissimi. E vi assicuro che ci sono altri brani di Simple Kid che non sono poi così vicini a Beck. Magari potrebbero essere più vicini ai Radiohead o più vicini a DJ Shadow. Un artista che sicuramente va ascoltato, va apprezzato ed Eclettica ve ne darà l'occasione nelle settimane a venire. Ed ora cominciate assieme a me a ripetere Fujiya Miyagi, Fujiya Miyagi, Fujiya. Yeah. Mariam aveva 5 anni la prima volta che sentì la parola harami. Accadde di giovedì. Doveva essere per forza un giovedì, perché ricordava di essersi sentita inquieta e pensierosa tutto il giorno, come le capitava di sentirsi soltanto di giovedì, il giorno in cui Jalil veniva a trovarla alla colba. Per far passare il tempo, sino al momento del suo arrivo, quando finalmente l'avrebbe visto salutare con la mano mentre attraversava la radura con l'erba alta sino al ginocchio, Mariam era salita su una sedia e aveva tirato giù il servizio da tè cinese della madre, Nana. Il servizio da tè era la sola reliquia che Nana conservasse della propria madre, morta quando lei aveva 2 anni. Custodiva con venerazione ciascuno dei pezzi di porcellana bianca e azzurra, la teiera dal becco elegantemente ricurvo, i fringuelli e i crisantemi dipinti a mano, sulla zuccheriera il drago che doveva allontanare il malocchio. Fu quest'ultimo pezzo che scivolò dalle dita di Mariam, andando in frantumi sulle assi di legno del pavimento della colba. Quando Nana vide la zuccheriera, si fece rossa in viso. Il labbro superiore ebbe un tremito e gli occhi, sia quello buono che quello guasto, fissarono Mariam con uno sguardo inespressivo, immobile. Era così fuori di sé da far temere a Mariam che il Jin sarebbe entrato nuovamente nel corpo della madre. Ma il Jin non si presentò, non quella volta almeno. Nana, invece, afferrò Mariam per i polsi, se la tirò vicina e a denti stretti le disse: «Sei una piccola goffa harami. Questa è la ricompensa per tutti i sacrifici che ho fatto per te. Rompere l'unica mia eredità, piccola goffa harami». A quel tempo Mariam non aveva afferrato, non conosceva il significato della parola harami, bastardo. E non era abbastanza grande per rendersi conto dell'ingiustizia, per capire che la colpa era di chi aveva messo al mondo la harami, non dell'harami stesso, il cui solo peccato era di essere nato. Mariam aveva avuto il sospetto, dal modo in cui Nana aveva pronunciato la parola, che la harami fosse una cosa brutta, schifosa, come un insetto, come gli scarafaggi che correvano veloci mentre Nana li copriva di maledizioni, scopandoli fuori dalla colba. Questo era l'incipit di Mille splendidi soli di Khaled Hosseini. Sono solo io che guardo in faccia la realtà che dici tu. A volte tremo come non ti piace, sai. Sicuramente è la mia libertà che va. Sono solo io e cerco verità che sfuggono anche a te. Non ho bisogno di volgari ipocrisie. Sicuramente è la mia dignità che va. Addio, sicuramente è la mia dignità che va. All right, look. Here's the deal. I've got a hangover. Who knows what that means? Doesn't that mean you're drunk? No. It means I was drunk yesterday. It means you're an alcoholic. Wrong. You wouldn't come to work hungover unless you're an alcoholic. Dude, you got a disease. What's your name? Freddie Jones. Freddie Jones. Shut up! Dopo il ritorno di Marilou Lorraine all'interno di Eclettica, abbiamo proseguito con Amina. Amina è un quartetto islandese. Molti le conoscono già per averle viste suonare dal vivo con i Sigur Rós, essendo questa formazione femminile il quartetto d'archi di fiducia del gruppo islandese. Anche loro provengono dalla capitale e hanno inciso fino ad ora un EP uscito in tiratura limitata. Ora, grazie alla Ever Records, la stessa etichetta, per dirne solo una, di Sign and Ben, danno una conferma anche su disco di quello che riescono a rendere dal vivo con i loro archi. Avete appena avuto occasione di provarlo voi stessi qua su Rock FM all'interno di Eclettica, che sta volgendo al termine. Giulio Caperdoni sta per arrivare ai saluti, e quindi ricorda l'indirizzo di mail giulio@rockfm.com per mantenere il contatto, e anche l'indirizzo myspace.com/eclettica del nostro spazio, al di là del sito di Rock FM, nostro, di Eclettiche ed Eclettici, dove trovare informazioni per esempio per il podcasting e dove lasciare messaggi in modo che li possano leggere tutti. Slept for days. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 38, volume numero 3, indice, Tomahawk, Spoon vs. Ghostface, Arcade Fire, At Swim Two Birds, The Forms, Simple Kid, Fujiya e Miyagi, Marilu Loren, Amina, Piano Magic. Giulio Caperdoni vi saluta e vi rimanda a domani, sempre alle 19, su Rock FM.